E se domani mi svegliassi con un piede nella fossa, quali santi pregherei? E se domani me ne andassi col martello nella borsa, quanta gioia urlarei? E se domani russi molto, avrò cento col demonio e si muovo lungo al mondo. Hey! E se domani ti ascoltassi con orecchie da mercante, più simpatico sarei. Un sorriso da demente di colui che è indifferente, un po' di pace troverei. E se domani rossi punto a braccetto col demonio, e se un uomo volto al mondo, rossi punto con i nervi e fior di pelle incidarò un sorriso nella cenere che lascerò. Con un occhio di riguardo quanto affetto mi darai. Non curarti se il mio volto da gioioso diventa torvo, poiché via non scapperai. E se domani rossi in volto